Fuori, Emanuela si sentì liberata. Quando era con quelle tre donne, dubitava che fuori ancora tutto procedesse normalmente. Era come quando si va a trovare le sepolte vive. Donna Inés, Emanuela pensò malignamente, portava la parrucca e sembrava un'artista di canto, soprano drammatico. No, soprano leggero, quelle che dicono tante parole in fretta, parole incomprensibili, e poi inchiodano la sala su un acuto in falsetto. Tale era Donna Inés. Emanuela, sollevata, leggera, camminava e, vedendo gli oggetti nelle vetrine, pensava soddisfatta: una cosa mi piace, posso entrare e comperarla. Camminava più eretta da quando si era accorta che un uomo la seguiva. Certe volte sbirciava con la coda dell'occhio per vedere se c'era ancora. C'era sempre un bel ragazzo. Si guardò in una vetrina e pensò: questo vestito mi sta proprio bene. Doveva essere sempre quello il suo modo di vestire, niente fogge complicate. L'uomo ogni tanto le si avvicinava per meglio guardarla, sussurrarle qualche parola. Lei assumeva una faccia contegnosa e provava una piccola emozione. Com'è divertente, pensava. E si deliziava in quella passeggiata. Poi rammentò le tre donne di Via Sistina e per non rattristarsi le accusò di essere noiose. Quanta gente muore in ogni istante, non bisognava farsi travolgere dalle disgrazie altrui. Aveva compiuto una buona azione andando a trovarle e basta. Chi si preoccupava di lei, in fondo? Chi mai le veniva in aiuto? Bisogna portare le proprie disgrazie con disinvoltura e non farne un lutto nazionale. Allora pensò ad Andrea e a Stefania. Un attimo. Il vento fresco, spolverandole il viso, disperdeva le loro immagini. Era contenta che Andrea oggi avesse voluto restare in casa a studiare. Fa bene ogni tanto un po' di libertà. Non si vuole essere libere per approfittarne? Che faceva di male? Niente, ma era bello essere sola. Traversare la strada quando voleva, non essere costretta a parlare e rispondere. A forza di essere in due si dimentica che è divertente anche andare a spasso da soli. C'è ancora quel giovanotto, e un sorriso interno la solleticava. Vedendo che la saviava all'angolo scuro di Piazza di Spagna, il giovanotto affrettò il passo. Emanuela, sempre più divertita, suonò alla porta del collegio, entrò e la suora richiuse. Quello sul marciapiede incontro restò deluso e lei sorrise soddisfatta, come per uno scherzo ben riuscito. Era allegra e tutto prendeva un aspetto umoristico ai suoi occhi. Chissà perché era allegra. Forse perché le stava bene quel vestito. Oh, senza ragione, neppure si intristì, vedendo le suore scivolare per i corridoi, sommesse come bisbigli, le porte uniformi, i finestroni sprangati. Saliva le scale saltellando, a passo di danza, e a ogni pianerottolo c'era accoccato un altarino con fiori di carta. La Madonna pareva fatta di zucchero, come le pecorelle di Pasqua. Le mandò un bacio sulla punta delle dita, poi entrò in camera di Silvia, che leggeva al tavolino. Come fai a studiare così al buio? Disse e accese la luce del centro. Silvia le si rivolse come assonnata, gli occhi gonfi di studio. Emanuela si sedette sul letto, facendolo sobbalzare, esclamò il cappello tra le mani: che bellissimo autunno! Subito Silvia le chiese: e vinca? Allora l'altra s'attristò e, prendendo un'aria d'occasione, le disse: non è nulla di grave, sai. In fondo, ieri sera siamo state noi a creare la tragedia. Un graffio al braccio e se ne va a casa in licenza. Ora capisco perché sono tanto allegra. Mi sono tolta l'incubo della morte di Luis. Vinca parlava della Spagna. Me ne ha messo addosso la voglia. Ci andrò, naturalmente, quando avranno finito di sparare. A tavola, Augusta fece a Emanuela sottovoce: vieni su da me dopo. Le offrì ancora di quel rustico liquore e sigarette. Lei, parlando, se ne versò un secondo bicchierino, senza neppure più invitarla a bere, seguendo un'abitudine presa essendo sola. Emanuela le parlò di Vinca, che, tranquilla per Luis, aveva ripreso a piangere per la Spagna. Sì, Augusta sentiva, sono quei paesi che non ci abbandonano, anche se ce ne andiamo lontani, come la Sardegna, i paesi nei quali ancora vivono i miti e le tradizioni. Si può andare dovunque, mescolarsi a gente diversa, sempre sardi si resta. Tu, per esempio, non parli mai di Firenze. Ti sembra? Stupì Emanuela e, dopo un attimo di riflessione, ammise che sì, forse era vero, quasi l'aveva dimenticata. Eppure amava quel solitario passeggiare al tramonto, raccogliendo l'ultimo oro sui ponti, ma si era adattata facilmente qui. In fondo s'adattava facilmente dappertutto. Palpeggiando le cartelle che aveva avanti a sé sul tavolo, Augusta raccontava che nel pomeriggio era stata una conferenza interessantissima. Emanuela pensava che Augusta sarebbe divenuta una di quelle zitelle che sono l'assiduo pubblico di certe speciali manifestazioni. Poi passò a parlare di Suor Lorenza. Sta diventando maniaca. È smagrita, hai visto? Teme che le sovvertano le alunne. È venuta da me per domandarmi se Suor Luisa ci dà disposizioni in suo nome. A dirmi che lei non sa nulla, nulla. La tengono all'oscuro di tutto. Dice che scriverà a Genova. Però, incontrandosi con le altre, si fanno il lieve inchino con la testa, pregano e cantano insieme una sola voce. E questa è la pace del chiostro. Di tutto parlava, fuorché del romanzo. E allora Emanuela le chiese: è il tuo lavoro? Prima di risponderle, Augusta accese un'altra sigaretta. Ho detto anche alle altre del romanzo, sai? Fece, ma vagamente. Lo leggeranno poi stampato. Silvia farà un po' di ironia. Augusta non amava Silvia. Questa era tanto semplice e limpida che appariva spietata. Dinanzi a lei, che aveva qualche cosa da nascondere, si sentiva come guardato dentro. Anche Manuela si sentiva a disagio quando parlava con Silvia. Mai avrebbe osato mostrarsi a lei com'era veramente e per piacerle si truccava di semplicità. Silvia non perdonava, forse la sua intransigenza morale non era che saggezza e pedanteria di donna brutta, di chi non ha nulla da farsi perdonare. Emanuela stava per chiedere ad Augusta: credi che Dio giudicherà nella stessa misura la donna bella che vive in mezzo alle tentazioni e una povera storpia che hanno fatto monaca? Credi che le considererà ugualmente donne? Ma guardandola tacque. Augusta riprendeva: adesso ti racconto, ancora sono oppressa dalla fatica. Voi, disse con una punta di sprezzo nella voce, voi non sapete cosa costa tutto questo. Quando passate avanti alle vetrine di libri, guardate come si guarda una vetrina di piatti, i colori, le figure delle copertine. A quante ore di fatica dietro ogni libro, quanti patimenti, quanto sangue, non carta, ma carne viva. Se la vetrina contenesse col libro tutta la passione dello scrittore, la vetrina esploderebbe. Michelangelo, mandando in dono a Vittorio Colonna un crocifisso scolpito da lui, dietro vi incise: non vi si pensa quanto sangue costi. Sangue. Sangue. E la gente passa e ripassa avanti alla vetrina, va oltre. Il libro è lì, con tutta la sua ansia, contenuta tra pagina e pagina. A casa lo getta tra gli altri, lo legge mentre è aperta la radio per godere di due cose alla volta e poi alla fine magari torce la bocca. Emanuela ricordò invece di aver letto in un romanzo di Huxley che un buon libro e un cattivo libro costano la stessa fatica. Augusta aveva già preparato il lume perché il buio non la sorprendesse. Le raccontò la trama del romanzo a voce bassa, come se si confessasse. Raccontò a lungo, alzandosi spesso per bere. Parlava con un tono di voce così fosco e misterioso che Emanuela ne fu impressionata. Che deve fare la donna per liberarsi dalla tirannia dell'uomo? Bisogna che si sostituisca a lui. Una vita autonoma, affrancata anche dalla servitù dei sensi, piena indipendenza dello spirito e della carne. La grande trovata del romanzo era qui. I personaggi avevano nomi irreali, compivano azioni irreali. Alla fine, l'uomo era scacciato dalla vita della donna, come Lucifero dal paradiso. Le donne di giorno lavoravano, di notte ascoltavano la musica senza sbadigliare o desiderare di più. E poi, Augusta continuava chinandosi verso l'amica, parlandole sul volto quasi sommessamente, e poi così nessuna di noi temerà più la vecchiaia. Il disfarsi della propria bellezza è una morte, sai. Vedere a poco sfiorire, afflosciarsi il proprio corpo. E tutto questo ci spaventa perché ci sono loro, gli uomini. Noi avrà una propria vita indipendente, di questo non si preoccuperà più. Se la donna invecchia, l'artista rimane sempre giovane, anzi è con l'avanzare degli anni che raccoglierà le maggiori soddisfazioni. O se lavora nel commercio, nell'industria, che ricoprirà le cariche più elevate. È una salvezza, capisci? Se Emanuela avesse letto un simile libro, forse si sarebbe messa a ridere, ma era suggestionata dall'ambiente, la casa che taceva, quella luce oleosa che sulla bianchezza del soffitto disegnava un'aureola di cerchi concentrici, la voce di Augusta e Augusta stessa, che appariva qualcosa come una medium o una zingara. La tesi del suo romanzo l'aveva tanto presa da toglierle quanto ancora fosse di femminile in lei. Sembrava che il suo paese le stesse dietro le spalle, come quando narrava di certe magie e di certe superstizioni, di certe storie avvenute nel suo villaggio, che era a un gomito di bosco, solitario, di quel raccogliersi in cucina, attorno al fuoco, mentre il vento ululava sinistramente. Diceva che ognuno, allora, si cercava nel cuore il peccato e ne chiedeva perdono a Dio. Così, convinta a questa nuova religione, Emanuela a occhi sgranati annuiva e si dimostrava persuasa. Sì, Augusta aveva ragione. Bisognava che tutte si convincessero. Le avrebbe convinte tutte. Immaginava Augusta andare per la campagna, per i boschi, girare in una carretta, fermarsi sulle piazze dei paesi, chiamare a raccolta e parlare. Forse le donne l'avrebbero seguita, lasciando le loro case. Sarebbero andate ad accamparsi tutte insieme, chissà dove, creando una città nuova. Non vi sarebbero più state pene per Stefania e per Andrea. Sarebbe stata in pace ad ascoltare la musica come predicava Augusta. Ma quella già non le badava più. Aveva parlato solamente per udire il suono delle sue parole e convincersi che vivevano anche al di fuori di se stessa. Tutto di lei era ormai divenuto solitario. Il gusto di bere, di fumare, il godimento delle lettere, della musica. La presenza di Emanuela, estatica e trasognata, lì, davanti a lei, la disturbava. S'alzò, congedandola, e concludendo, disse, riunendo le cartelle in un bel pacco ordinato: tra 15 giorni lo mando a un editore. Un editore intelligente che capirà. Emanuela uscì, si ritrovò nell'ombra fitta. Scivolava lungo il muro. E il fruscio del suo vestito somigliava a quel pauroso sibilare del vento attorno alla fattoria di Augusta. Scendeva le scale incerta e intanto riandava a quei giorni passati con Stefano, nascosti, segreti, e ai sotterfugi che doveva architettare per vedere Stefania. Bisognava parlare ad Andrea, troncarla definitivamente. C'erano sempre in questa vita comune di uomini e donne cose taciute, celate, e bisognava uscirne. Avere una limpida vita alla luce del sole. Ma chi ha veramente la vita limpida? Chi non mente? Chi conosce cosa c'è dietro la fronte di ognuna? L'uomo che siede accanto a noi in tram, forse è stato 10 anni in prigione per assassinio. E questo non si sa, non si vede. La sua colpa non esce a macchie sulla pelle. Siamo tutti uguali, perché abbiamo la comune difesa della fronte dietro la quale nessuno può seguirci. E dietro la fronte tutte custodiscono qualcosa di inconfessato del quale si potrebbe arrossire. Certo, al buio tutte hanno paura e tutte hanno paura della morte. Giunse avanti alla porta della sua stanza e istintivamente avrebbe voluto andare oltre, ritrovare Milly. Perché non c'era più Milly? Avevano ragione le compagne di chiedersi se mai era stata. Forse ella in ognuna rappresentava solo il desiderio di bontà, nascosto, quasi mistico, che nessuna sapeva raggiungere, la parte migliore di noi che ci libera. Forse pensando a lei, tutte provavano il desiderio di poter abolire la fronte senza arrossire. Eppure, a Emanuela, tutto ciò che era tra le pareti del collegio le appariva fantastico. Una vita anormale di gente rinchiusa e avida che si arrovellava la testa in discussioni e problemi. Si passò la mano sulla fronte per liberarsi dalla suggestione delle parole di Augusta. Aveva voglia di uscire all'aria, non più sentir parlare delle cose solite, neppure di Andrea. Dico così, pensava amaramente, e poi domani tornerò con Andrea perché non so che fare, non ho altro. E tornerò su da Augusta ad ascoltare i suoi discorsi, proprio per provare una scossa, come quando si va a vedere il castello delle streghe al Luna Park. Subito dopo l'arresto di Dino, Tom Barchi era partito. La Mary, temendo di essere ricercata anche lei, era andata a trovare Xenia, ma guardandosi attorno, timorosa. Era arrivato un foglio che invitava Tom a presentarsi in questura, ma lui già stava al largo. Però sarebbe ritornato presto. L'avvocato aveva detto che per lui non c'era da temere. Tutte le firme erano di Dino. Tutto stava sulle spalle di Dino e lui, certo, non avrebbe trascinato gli amici con sé. La Mary, più pallida del solito, tossiva di frequente. Per la prima volta parlò del suo male. Sai, diceva, la tisi è una malattia che non si vede, non deforma, e per questo mai sembra veramente grave. Siccome ci si sente bene alcuni giorni, neppure si mette il termometro, non ci si pensa più. Quando dicono vada in montagna, sembra quasi che sia per divertimento, e si prova rimorso di stare lassù senza far nulla, a spendere quattrini. E come si può morire sentendosi bene? La febbre, sì, ma in fondo la febbre, quando però accade una disgrazia, allora ti ricordi di avere anche quel male dentro che ti rode la vita e lo senti ingigantire, gonfiarsi, capisci? Mary era molto graziosa, bionda e alta, pareva un inglese, per quella calma degli occhi acquosi senza intelligenza. Sotto la pelle sembrava non avere sangue, ma latte freddo. Tom, con quel vestito a grossi quadri e la giacchetta corta e la pipa e quel suo camminare barcheggiante, non era l'uomo adatto per lei. Ma la vita non lascia tempo di scegliere e i due andavano d'accordo. Mary era sempre quieta e remissiva, sembrava vivere di riflesso come la luna. S'accese soltanto quando disse che Horsch era un farabutto. Tu sai come sono andate le cose? Sai che l'affare era di lui, di Horsch? Ma spingeva avanti Dino, sempre. Dino, che era un po' facilone negli affari, e credeva a tutto perché in fondo lui era onesto, e però si era lasciato attrarre dalla vita facile. Sì, approvò Xenia, è difficile rifiutare la vita facile. Mary sospirò, assentendo, e poi riprese: Sai, quella di Dino è cosa complicata. Un'altra volta, anni fa, già aveva avuto, sì, insomma, un'altra grana e se l'era cavata, e adesso è, come si dice, l'ha detto l'avvocato, recidivo. Non lo sapevo, ma capisco. E ti sembra giusto che Horsch... Ah, io lo disprezzo. No, non è giusto. Ma appunto, tu dici bene. Tutto quello che noi possiamo fare è disprezzarlo. Bisogna imparare a sopportare molte cose dolorose. Ti sembra giusto, per esempio, che noi siamo messe a bando dalla società? Sì, confessiamolo adesso che siamo sole. Soltanto perché un uomo ci mantiene? Ma quante si fanno mantenere dal marito e lo tradiscono? E quello lavora, le ama teneramente, patisce e fatica per il loro benessere. Ti sembra onesto questo? S'era alzata e camminava nervosamente, ferita dalla crudezza delle sue stesse parole. A tratti si arrestava per fissare l'amica in faccia. No, non è onesto. Ma al mondo non ci sono onesti e disonesti, ci sono poveri e ricchi. E i poveri è inutile che vadano a gridare sotto la Bastiglia. C'è una sola forza al mondo, e sai qual è? Il denaro. E con quello puoi comperarti anche l'onestà. Tacque. Rimase meravigliata a considerare quello che aveva detto, come se fosse stato espresso da un'altra persona. Ragionava così da un po' di tempo, e però nell'udirsi se ne sorprendeva. Tutto s'era capovolto in lei. Ciò che prima le era apparso irreparabile disgrazia era stato quello che aveva sistemato le cose per il meglio. Dove sarebbe adesso se avesse preso la laurea? Se avesse avuto le referenze adesso lavorerebbe con quella banca? Pareva tanto gentile quel pezzo grosso, ma poi chi lo sa? In fondo doveva tutto a Vandina. O neppure, perché Vandina non si rendeva conto di farle del bene. Altrimenti forse non glielo avrebbe fatto. Avrebbe cercato di farselo per sé. Senza riuscirvi, perché non era destino. Il destino è al di sopra di noi, sulla nostra testa, e regola ogni persona per i fili. Il destino è fatto da brevi istanti, da incontri. E però certe cose si prevedono. Lei aveva sempre intuito che il suo soggiorno al paese era provvisorio, che qualcosa l'aspettava e non doveva sedersi rassegnata. Aveva aspettato ed ora, ecco, era arrivato Raimondo Horsch. Horsch andava da lei ogni giorno perché non s'abbattesse. Un giorno che non venne, Xenia, inquieta, gli telefonò. Non poteva venire, era sabato. Il sabato partiva sempre per Menaggio. A Menaggio, Dino aveva detto, abitavano la moglie e la figlia. Xenia cercava di immaginare la casa dove queste due donne vivevano, si diceva in grande modestia, ma non le riusciva, poiché arrivando alla casa di lui, il suo pensiero se ne ritraeva con discosto rispetto. Le immaginava silenziose, solenni, e il lunedì accolse Horsch con insolita allegria e gli chiese: «Avete passato una buona domenica?» Lui rispose con un'altra domanda: «E voi?» Non bisognava insistere. Xenia capì. Nella vita di Raimondo Horsch, il sabato e la domenica dovevano essere per lei una zona oscura. Si sentì ferita al principio, e poi anche questo divenne cosa normale. S'accorgeva che a poco tutto sarebbe divenuto cosa naturale nelle sue abitudini di vita, e a Horsch non avrebbe osato ribellarsi. Xenia aveva soggezione di quei gesti misurati, di quelle parole misurate, di tutto ciò che di lui non sapeva, perché egli si scopriva pochissimo. Lei ogni giorno chiedeva: «Quando potrò vedere Dino?» Ed egli le rispondeva: «Presto, molto presto». Ed esaurito questo dovere, si mettevano a parlare d'altro. Xenia ricordava Dino con un po' di condiscendenza, come le amiche di collegio. Se fosse stato rimesso in libertà, non avrebbe saputo come fare. Spesso rammentava il fruscio setoso del pigiama di Dino in quella loro prima notte. Adesso, abituata alla finezza di Horsch, alla sua conversazione, riconosceva che Dino veramente era un po' volgare. Avanti a Horsch si sorvegliava sempre e si meravigliava che quell'uomo, con quell'intelligenza, un uomo come lui, fosse innamorato di lei. Io, pensava guardandosi allo specchio, proprio io, questa qui. Horsch le diceva spesso: «Voi siete una donna non comune, Xenia. Nessun'altra vi somiglia». Beh, deve essere proprio vero, ella pensava. Fin dall'infanzia lo aveva creduto. Che cosa c'era in lei di misterioso, fino dalla nascita? Era veramente figlia di quei genitori, lei, con quelle sue mani fini e quell'armonioso modo di parlare e di muoversi? Tutto ciò era miracolo. Horsch le aveva detto: «Partite! Perché non volete più adesso? Prima desideravate andare in Riviera». E lei non aveva chiesto neppure: «E i soldi chi me li dà?» Aveva obiettato: «E la casa?» Per sentire cosa rispondeva, se si faceva invischiare, legare. «Penserò a tutto, sistemerò tutto, sarà bene liquidarla la casa. Sarebbe malinconico per voi tornarvi ad abitare, e poi è una casetta meschina in un quartiere popolare. Non vi preoccupate di nulla, pensate a partire». Il giorno dopo, per la prima volta, le dette denaro. Lei, senza guardarlo, lo mise tra le pagine di un libro e disse graziosamente: «Vi ringrazio». Poi tornò a parlare di altro. Cosa contava molto denaro per una donna come lei? Infatti, una volta che raccontava del collegio e della sua fuga, Horsch, senza farglielo notare, l'aveva interrotta. Era stata una mossa falsa, ella lo capì. Non si deve più parlare del passato. Anzi, perché non inventarne addirittura un altro, differente? Bastava ascoltare il tono con il quale Horsch, congedandosi, le diceva: «Buonanotte, amica mia». Per capire che quell'infanzia nella miseria, quel passato mediocre, non poteva essere stato di lei. E pensare che la notte dell'arresto di Dino s'era tanto disperata. Telefonò a Mary e le disse di non venire il domani, doveva uscire, una cosa importante. Se no, pensava, quella ricomincia con i discorsi della giustizia. La sera che Horsch le portò una spilla di rubini, Xenia, prima ancora di ringraziarlo, esclamò: «Oh, io che amo tanto i rubini!» Lo disse come se sempre nella sua vita ne avesse avuto la scelta tra le altre pietre. Subito si sentì soddisfatta del modo col quale lo aveva detto. Poi gli versò il whisky, si rannicchiò sul divano e, parlando, cercava di non guardarsi quella fiamma rossa sul petto, però se la sentiva ardere. E quando egli fu andato via, corse a guardarsi. Non poteva a meno di pensare a Emanuela. Tante pene per quello smeraldo. Poi si rammaricò di tali pensieri, comprendendo che in questa istintiva meraviglia era la prova della straordinarietà della sua fortuna. «Io faccio finta di non maravigliarmi di nulla, e invece debbo effettivamente non maravigliarmi di nulla». Horsch Horsch le telefonò che il giovedì seguente l'avrebbe potuto vedere Dino. L'avvocato aveva ottenuto un permesso speciale e lei fece soltanto «Ah, bene!». Ma il cuore prese a batterle forte, come quella prima sera quando tutto intorno a lei sembrava crollare, travolgendola. Il mercoledì Horsch andò di nuovo a trovarla. Voleva portarla fuori a cena per distrarla, ma lei rifiutò. «Ancora no», disse, quasi pregandolo di rispettare un lutto troppo recente. Pranzarono a casa di Xenia. Era la prima volta. Lei, nel dire alla cameriera «Il signore pranza con me», capì che la cosa cominciava veramente. E fu la tacita indifferenza della domestica a confermarle che ormai anche questo diveniva normale. Sedettero a tavola silenziosi, quasi imbarazzati. Xenia osservava Horsch attentamente nella luce che lo colpiva dall'alto. Era calvo, un po' grasso, di portamento giovanile. Deve avere almeno 46 anni, pensò, e intanto andava guardandogli le mani mentre si serviva. Mani grasse da parroco, meglio da monsignore, per quella rotonda bianchezza, mani già vecchie. Sì, certo, doveva avere più di 46 anni. Il pomeriggio del giovedì il cielo era piovoso e basso. Un velo d'acqua faceva a specchianti le strade. Le finestre delle case erano cupi occhi neri. La gente camminava rasente i muri, ammollita dall'acqua, senza testa, con un gran fungo nero e lucido sulle spalle, e scompariva nei portoni con sollievo. Sibili seguivano il lento passare delle automobili. Xenia mise l'impermeabile, un cappello calato. Uscì per tempo e andò a prendere il tram. Non poteva arrivare a San Vittore in taxi, uscire dalla sua casa comoda, calda, e in un salto farsi trasportare lì, quasi andasse a teatro. La pioggia le bagnò le scarpe, i piedi. Il tram non passava mai. Con lei aspettavano tante altre persone, poi salirono insieme rifiatando, e nel tram l'acqua sgocciata dagli ombrelli formava pozze e irrigava il linoleum infangato. Lungo i vetri dei finestrini correvano gocciole rapide, incerte. Lei si guardava nel vetro di contro, immagine evanescente. La pioggia rigava il suo volto come se lacrimasse. Nella vettura gremita le scosse la sbattevano di qua, di là, secondo le svolte, e le facevano strofinare il suo braccio ad altre braccia bagnate. Scese dal tram e salì in un altro. San Vittore era molto lontano da casa sua. La gente a ogni fermata scendeva, si spandeva e infine, confusa in un gruppo, Xenia scese e si allontanò. Portava addosso tutti quei contatti. Nessuno, certo, aveva pensato che lei andasse alle prigioni, una signorina così distinta. Quando entrò nel portone, la stanchezza e lo smarrimento le davano un aspetto afflitto. Era questa la prigione della quale da tanto tempo si parlava in tono bisbigliato e sommesso. Si rivolse al guardiano con quell'aria speciale che si assume per chiedere di vedere un innocente che sta lì per sbaglio. Mostrò il permesso, disse. Ringraziò con tanta gentilezza, quasi per indurre quello a pensare: amico di questa qui non può essere che una persona per bene. Il parlatorio. Uno stanzone color polvere che prendeva luce da un lucernario inferriato, era diviso a metà da due grate parallele, tra le quali una guardia passeggiava. Dalla parte dei visitatori come dall'altra, davanti ad aperture grandi appena lo spazio di una faccia, erano messi sgabelli di legno. Odore di rinchiuso e di sudore, e nel silenzio cadenzato dal passo greve della guardia che andava in su e in giù, gli occhi a terra. Lì dentro c'era già una donna in colloquio, con un vecchio seduto a gambe aperte per la pinguedine, sulla nuca una piega di grasso e un solco profondo come una cicatrice. Sorrideva con un sorriso rassegnato e sottomesso e ascoltava la moglie facendo sì, con la testa, mentre sbucciava un'arancia che lei gli aveva portato e che spandeva attorno un fresco odore. Attento a non lasciar cadere i pezzi di buccia, se li metteva in tasca, simile ad un bambino che abbiano sgridato perché ha insudiciato il pavimento. La donna portava un padellino in testa e un paltò di peluche. «Sta tranquillo», gli diceva, «sta buono, c'è l'avvocato che ci pensa». Devi uscire subito, ha detto che è cosa di giorni, hai capito? Gli parlava in un tono blando, come si usa coi malati e coi bambini. E lui taceva e continuava a fare sì, mettendosi in bocca gli spicchi dell'arancia. Quando Dino entrò, Xenia balzò in piedi pallida e lo chiamò. Avrebbe voluto abbracciarlo, ma la grata stava tra di loro. Egli s'appoggiò alla grata e disse con voce che voleva essere sicura. Non può mica andare sempre bene, vero piccina? E fece un gesto a mostrare intorno. Sì, insomma, era questa che lui aveva sempre chiamato la galera. Voleva sorridere, ritrovare la sua spavalderia, e invece, imbarazzato, si cacciò la mano in tasca e rimuginò come cercando qualcosa. Senza colletto, il vestito sciattato, la barba di 2 giorni, uno straccio pareva.